settimane. Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Rileggendo quanto scritto sinora mi rendo conto di aver dato l'impressione che gli eventi di 3 serate, succedutesi a distanza di varie settimane, mi avessero completamente assorbito. Al contrario, si trattò di avvenimenti molto casuali, dispersi in un'estate affollata di cose, e per un lungo periodo mi assorbirono in misura assai minore delle mie beghe personali. Il più del tempo lo passavo al lavoro. Di primo mattino il sole proiettava la mia ombra verso ovest mentre mi affrettavo per i bianchi baratri della punta estrema di New York diretto alla Probity Trust. Ero entrato in confidenza con gli altri impiegati e i giovani agenti di cambio e pranzavo con loro in ristoranti bui e affollati mangiando salsicce di maiale, purea di patate e caffè. Ebbi anche una breve relazione con una ragazza che viveva a Jersey City e lavorava nel reparto contabilità. Ma il fratello cominciò a lanciarmi occhiate cattive, per cui a luglio, quando lei andò in ferie, lasciai morire la cosa in punta di piedi. Cenavo solitamente allo Yale Club. Per qualche ragione la cena costituiva l'evento più desolato della mia giornata. E dopo salivo nella biblioteca al piano superiore e dedicavo un grande studio coscienzioso a investimenti finanziari e assicurazioni. C'era sempre un'allegra e rumorosa brigata in giro per l'ufficio, ma la biblioteca era al riparo da simili incursioni. Pertanto era un buon posto per lavorare. Dopodiché, se era una bella serata, ciondolavo per Madison Avenue, oltrepassavo il vecchio Hotel Murray Hill e la 30ª strada, e imboccavo nella Pennsylvania Station. New York cominciava a piacermi. La sera emanava un forte sapore d'avventura, e il costante sfarfallio di uomini e donne e macchine era una soddisfazione per l'occhio inquieto. Mi piaceva camminare per Fifth Avenue, individuare donne romantiche nella folla, e immaginare di entrare in pochi minuti nella loro vita senza che nessuno potesse mai saperlo o disapprovare. Talvolta nella mia mente le seguivo fino a casa, all'angolo tra 2 strade nascoste, e loro si voltavano e ricambiavano il mio sorriso prima di svanire nella tiepida oscurità oltre la soglia. Col calare dell'incantato crepuscolo metropolitano venivo a volte assalito da un persistente senso di solitudine, e l'avvertivo anche negli altri, quella solitudine, nei poveri giovani impiegati che indugiavano davanti alle vetrine in attesa che giungesse ora di una sostanza di cena in un ristorante, giovani impiegati nel tramonto a sprecare così i momenti più intensi della sera e della vita. Di nuovo alle 8, quando le buie corsie di Midtown pullulavano di taxi strombazzanti diretti alla zona dei teatri, avvertivo un tuffo al cuore. C'erano sagome di persone che si stringevano negli abitacoli dei taxi in sosta ai semafori, e voci che cantavano, e risate suscitate da chissà quali barzellette, e sigarette che si accendevano disegnando movimenti inintellegibili. Immaginando di correre anch'io verso l'euforia e di condividere l'intimità della loro eccitazione, auguravo a tutti un gran bene. Grab your coat, get your hat, leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to that sunny side of the street. Can't you hear a pit-a-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Good on the feet on the sunny side of the street. Per qualche tempo perdetti di vista Jordan Baker, finché a estate ormai inoltrata non la ritrovai. In un primo momento mi sentii lusingato di uscire con lei, perché era una campionessa di golf e il suo nome era noto a tutti. Poi subentrò dell'altro. Non mi ero davvero innamorato, ma provavo una sorta di tenera curiosità. Il viso noiato e altezzoso che lei concedeva al mondo mascherava qualcosa. Le pose finiscono quasi tutte per mascherare qualcosa, anche quando non vengono assunte a questo scopo. E un giorno scoprì di che si trattava. Ci eravamo recati insieme a Warwick per una festa di campagna, e lei lasciò l'auto che le avevano prestato sotto la pioggia e con la cappotta abbassata, per poi negare l'accaduto. Ed un tratto mi tornò in mente la storia che non mi era riuscito di rammentare quella sera da Daisy. Al suo primo grande torneo di golf si era scatenata una lite che per poco non aveva raggiunto i giornali. Fu detto che aveva spostato la palla da un brutto lie nella semifinale. La cosa rasentò le proporzioni di uno scandalo, quindi si spense. Un caddy ritrattò la sua versione e l'unico altro testimone ammise che poteva essersi sbagliato. L'episodio e il nome mi erano rimasti impressi come un tutt'uno. Jordan Baker evitava distinto gli uomini scaltri e avveduti. E adesso capivo che lo faceva perché si sentiva più sicura mantenendosi su un piano dove qualunque divergenza da un codice stabilito fosse considerata impossibile. Era inguaribilmente disonesta. Non riusciva a tollerare di trovarsi in svantaggio e, data questa insofferenza, suppongo che avesse cominciato a ricorrere ai sotterfugi quando era ancora molto giovane, così da ostentare al mondo quel sorriso gelido e insolente e soddisfare al contempo le richieste del suo corpo energico e allegro. Non faceva alcuna differenza per me. La disonestà in una donna è una cosa che non va mai troppo biasimata. Lì per lì ne restai dispiaciuto, poi me ne dimenticai. Fu a quella stessa festa che avemmo una curiosa conversazione su come si guidano le auto. Prese il via perché lei passò così vicino ad alcuni operai che il nostro parafango sfiorò un bottone della giacca di uno di loro. «Guidi malissimo», protestai. «Dovresti stare più attenta, oppure non guidare affatto». «Io sto attenta». «No, invece». «Beh, tanto stanno attenti gli altri», replicò lei disinvolta. «E questo che vorrebbe dire? Che si tengono alla larga da me», insisté. «Bisogna essere in due per fare un incidente. Poniamo che incontri qualcuno sbadato come te». «Detesto le persone sbadate, è per questo che mi piace». I suoi occhi grigi e tirati per il sole guardavano fisso davanti a sé, ma lei aveva deliberatamente spostato i termini della nostra relazione. E per un momento pensai di amarla. Ma io sono una persona lenta nel soppesare le cose, nonché piena di regole interiori che agiscono sui miei desideri alla maniera dei freni, e compresi che innanzitutto dovevo levarmi in maniera definitiva da quel pasticcio con la mia amica laggiù nel Midwest. Le scrivevo lettere al ritmo di una settimana, firmandole con affetto Nick. Eppure l'unica cosa che mi veniva in mente pensando a lei erano i leggeri baffi di sudore che le comparivano sopra il labbro quando giocava a tennis. Non di meno c'era un impegno vago ma implicito che bisognava rompere col dovuto tatto prima che potessi considerarmi libero. Tutti si credono dotati di almeno una virtù cardinale. E questa è la mia. Io sono una delle poche persone oneste che abbia mai conosciuto. Domenica mattina, mentre le campane delle chiese risuonavano nei villaggi lungo la costa, mezzo mondo faceva ritorno alla casa di Gatsby per creare un allegro scintillino nel giardino. «È un contrabbandiere», dicevano le ragazze, muovendosi tra i cocktail e i fiori. «Una volta ha ucciso un uomo perché aveva scoperto che era il nipote di Von Hindenburg e cugino di secondo grado del diavolo. Passami una rosa, tesoro, e versami l'ultimo goccio in quel bicchiere di cristallo». Una volta ho appuntato negli spazi vuoti di un orario ferroviario i nomi di coloro che erano stati in casa di Gatsby quell'estate. È un vecchio orario ferroviario adesso, un foglio che si va disintegrando lungo le piegature e reca l'intestazione «orario in vigore a partire dal 5 luglio 1922». Ma distingo ancora i nomi grigi, e questi nomi vi daranno un'idea più precisa rispetto alle mie osservazioni generali di chi fossero coloro che accettavano l'ospitalità di Gatsby e gli pagavano il discreto tributo di non sapere la benché minima cosa sul suo conto. Da East Egg, dunque, venivano Chester Baker e signora, i Leach e un tale di nome Bunsen che avevo conosciuto a Yale, e il dottor Webster Sivet, affogato l'estate scorsa nel Maine. Carter senza niente di perdere gli Seg, a quanto ricordo. Venne una sola volta, si presentò con dei pantaloni alla zuava bianchi ed ebbe un diverbio con un fannullone di nome Etty nel giardino. Snell venne 3 giorni prima di finire rinchiuso nel penitenziario. Stramazzò ubriaco sulla ghiaia del viale e la moglie di Ulysses Sweat gli passò sopra la mano destra con l'auto. Un tizio di nome Clip Springer veniva così spesso e si tratteneva tanto a lungo che divenne noto come il pensionante. Dubito che avesse una casa, a parte quella. Del mondo teatrale c'erano Gus Wades, Horace O'Donovan, Lester Meyer, George Duckwid e Francis Bull. E Harry Palmetto, che si uccise saltando davanti a un treno della metropolitana a Times Square. Benny McLean arrivava sempre con 4 ragazze. Non erano mai le stesse persone, cioè, ma erano così identiche le une alle altre che la sensazione era inevitabilmente quella di averle già viste ai ricevimenti. Ho dimenticato i loro nomi. Jacqueline, mi pare, o anche Consuela, o Gloria, o Judy, o June. I loro cognomi avevano o il suono melodioso di fiori e mesi, o quello più austero di un qualche grande capitalista americano del quale le ragazze, se messe alle strette, confessavano di essere cugine. In aggiunta a tutti questi, mi ricordo che Faustina O'Brien venne almeno una volta, come vennero anche le ragazze B. Decker e il giovane Brewer, che in guerra si era visto staccare il naso da un colpo di fucile. E il signor Albux Burger, e la signorina Hugg, sua fidanzata, e Ardita Fitzpeters, e il signor P. Jewett, un tempo capo della legione americana, e la signorina Claudia Hip, con un uomo che si supponeva essere il suo chauffeur e un principe di qualcosa che noi chiamavamo Duca, e il cui nome, ammesso l'abbia mai saputo, ho dimenticato. Tutte queste persone vennero in casa di Gatsby durante l'estate. Alle 9 un mattino di fine luglio la sontuosa auto di Gatsby scartò per il vialetto sassoso che conduceva alla mia casa e un forte richiamo modulato su 3 note proruppe dal suo clacson. Era la prima volta che passava da me, sebbene fossi già stato a 2 sue feste e sul suo idrovolante e dietro pressante invito avessi fatto frequente uso della sua spiaggia. «Buongiorno, vecchia Lenza. Oggi pranzi con me e ho pensato di passarti a prendere». Si protese bilanciandosi sul cruscotto dell'auto con quell'intraprendenza fisica così tipica di noi americani. E che deriva, immagino, dal non aver conosciuto in gioventù né il lavoro pesante, né una rigida educazione, e ancor più dalla informe grazia dei nostri giochi nervosi e sporadici. Sotto forma di irrequietezza, questa peculiarità trovava sempre il modo di farsi breccia nelle puntigliose maniere di Gatsby. Non stava mai fermo. Se non era il piede a tambureggiare sopra qualcosa, era la mano ad aprirsi e chiudersi con impazienza. Si accorse che guardavo ammirato la sua auto. «Carina, vero, vecchia Lenza?» Saltò giù con un balzo affinché potessi contemplarla meglio. «Non l'avevi ancora vista?» «L'avevo vista. Tutti l'avevano vista. Era di un intenso color crema, rilucente di nickel, enfiata qui e là nella sua mostruosa lunghezza da trionfanti bauletti per i cappelli, bauletti per le provviste e bauletti per gli attrezzi, nonché terrazzata con un labirinto da barbarista nel quale si specchiavano una dozzina di soli. Seduti dietro molti strati di vetro, in una specie di loggia foderata di cuoio verde, partimmo per la città. Gotta get my old tuxedo dress, gotta sew a button on my vest, 'cause tonight I've got to look my best, to look back in town. Gotta get a half a buck somewhere, gotta shine my shoes, slick my hair, got to get myself bootin' there, Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my Harlem coquettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call, I ain't coming home until the fall, and again I might not get back home at all, Lulu's back in town, yeah. Woman's back of town. Oh, my.